scendo un attimo a comprare le sigarette, disse un giorno alla sua moglie il signor Beppe. E non torno mai più, andò a comprarle.